15.02, benvenuti a, e benvenute a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta iniziando Tracce di Cinema, oggi Fede, un filmone, mi piace un sacco, te l'hai visto poi alla fine? No, alla fine non l'ho visto, non l'ho trovato. Tu l'hai visto in lingua originale, sì. E me lo cercherò, sì, così. Sì, sì, fighissimo. È la storia della, di un'etichetta musicale famosissima, la Factory di Manchester. È un film del 2002, la regia è di Michael Winterbottom, regista pluripremiato sia per questo film che per molte altre sue suoi lavori. Ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 2003 con il film Cose di questo mondo, poi nel 2006 è stato sempre premiato con l'Orso d'Argento per la miglior regia per il film Road to Guantanamo. A Cannes ha preso la Palma d'Oro per il film Benvenuti a Sarajevo. Insomma, un regista di tutto rispetto, un grande appassionato di musica, e si vede perché insomma in questo film 24 Hour Party People, l'avevo detto il titolo del film? Forse sì. 24 Hour Party People è proprio ispirato al guru Tony Wilson, che appunto ha dato vita alla, a questa incredibile etichetta musicale che ha scoperto e prodotto tantissimi gruppi, soltanto per citarne un paio, uno i Joy Division, tanto per dire ecco. Poi che ne so, ultimamente, negli ultimi tempi, i Chemical Brothers, se non sbaglio. E appunto in questo film Winterbottom narra le vicende di Tony Wilson e della sua etichetta discografica e di tutti questi personaggi che ruotano intorno a lui e che hanno insomma dato vita a questo momento epocale di musica a Manchester. Parlo di Martin Annett e di tanti altri, e sono praticamente è la biografia di Wilson, che però va parallelamente alle storie di due personaggi importantissimi della storia della musica: Ian Curtis, il leader dei Joy Division, e Shawn Ryder, quel gran fattone di Shawn Ryder degli Happy Mondays. Entra e esce con grande naturalezza nella storia vera e parlandone anche con degli aneddoti che forse sono anche un po' romanzati, ma insomma lo fa con una grande dimestichezza insomma dell'argomento che tratta, perché insomma lui, come dicevo prima, è un grande appassionato di musica, e appunto ripercorre la storia di questa mitica etichetta discografica indipendente, la Factory Records, del locale, del club più importante di Manchester, che era la Hacienda, sempre fondato da Tony Wilson, e quindi anche la storia di tutto questo periodo musicale importantissimo, che va viene narrato attraverso vari gruppi, con la sua colonna sonora, in cui vengono suonate tantissimi pezzi della scena New Wave fino poi a poco tempo fa, penso a Moby, che speriamo di riuscire a suonare. Comunque insomma c'è tanto da dire, Fede, c'è tanta musica. Partiamo dalla fine degli anni 70, partiamo dal punk, sì, perché tutto ha inizio così per Tony Wilson. una versione incattivita e disperata di No Fun di Iggy Pop and the Stooges dei Sex Pistols, e cade a fagiolo perché di Iggy and the Stooges abbiamo visto un bellissimo documentario di Jim Jarmusch qualche giorno fa, e questo è il pezzo di apertura di questo film. Sì, sì, è il pezzo di apertura di questo film, perché la storia del protagonista inizia proprio con durante un concerto dei Sex Pistols in cui erano solo in 40 poco di più, o forse poco meno. Lui era tra gli spettatori e gli venne questo trip di creare un'etichetta musicale indipendente che producesse gruppi alternativi, e con questa canzone, con questo pezzo, come si suol dire, addio Flower Power, addio Age of Aquarius, la festa è finita, c'è solo il nulla. Ed è proprio così, perché poi questa canzone suggella un po' l'ultimo capitolo di questo gruppo, che poi insomma, nonostante abbia prodotto pochissimo materiale, 4 singoli e un album, e la carriera è durata poco più di 2 anni, insomma, è nell'immaginario collettivo era già punk di chiunque. E dicevo, questo pezzo è appunto l'ultimo capitolo della storia dei Sex Pistols, perché viene suonato durante l'infausta tournée americana del 1977, conclusasi il 17 novembre al Winterland di San Francisco, e a conclusione del concerto uno stanco Johnny Lydon ammonisce appunto e dice: avete un solo e unico bis, e non poteva essere che No Fun, perché appunto la festa si era conclusa un po' per tutti. Siouxsie and the Banshees con Break Up to Make Up, mia cara Ottavia. È un'altra storiona questa di Siouxsie. Era il 1976 quando lei e il suo amico Steven Severin vanno a suonare un concerto dei Sex Pistols. Lei era una groupie dei Sex Pistols, li seguiva ovunque. E succede che dopo che hanno saputo che una delle band previste per suonare in questo club organizzato appunto in un festival di questo festival organizzato dal manager dei Sex Pistols Malcolm McLaren si sta ritirando dal programma all'ultimo minuto, e Susie suggerisce a Severin, che è arrivato il momento di suonare, e senza ancora un nome ma con due musicisti in prestito al loro fianco, che erano Marco Pirroni alla chitarra e John Simon Ricci, già comunemente conosciuto come Sid Vicious, alla batteria, si esibiscono per la prima volta con un'improvvisazione, Fede, di 23 minuti su The Lord's Prayer, il Padre Nostro. Beh, sarebbe stato fantastico esserci, lei è una grande, una versione spiritualissima, lei è una grande proprio, e vabbè, ha collaborato con una cifra di gente, dai Suede a Morrissey, e ha avuto un impatto enorme su un sacco di artisti, da Tricky ai Massive Attack, che hanno campionato Metal Postcard sulla loro canzone Super Predators, per la colonna sonora del film The Jackal. Altri artisti hanno fatto mille cover sui suoi pezzi, da Jeff Buckley, Killing Time, gli LCD Sound System, i Red Hot Chili Peppers, e Susie ha influenzato altre band che vanno dai contemporanei U2 a i Cure, i Jesus and Mary Chain, Jane's Addiction, che te lo dica fa. E questi sono gli Happy Mondays con 24 Hours Party People, da cui il titolo del film, una versione, un remix con John Carter's Acid Vocal. Sì, beh, è un po' rosicato che me l'hai sfumata così. Lo so, dobbiamo metterne tante. E beh, insomma, questo pezzo martellante con sto riff di basso e chitarra che si ripetono infinitamente, sono pure un bel video schizofrenico con i nostri i fratelli Shawn e il Paul Ryder, due fattoni che proprio, cioè, la metà basta, vanno a cazzeggio per la città, e poi a loro si aggiunge questo personaggio mitico che è Mark Berry, detto Betts, che è l'uomo immagine del gruppo, che balla durante i loro concerti. Si parla, sono famose le loro session di registrazione fatte solo ed esclusivamente sotto Ecstasy, e poi nel 1985 nasce questa perla della musica, Quilled and G-Men, 24 Hour People, Plastic Face Can't Smile, White Out, fu prodotta da John Cale. Inizialmente questo disco fu stampato con la canzone Desmond, una versione tossica e confusa di Obladi Oblada dei Beatles, ma Michael Jackson, che era possessore dei diritti della canzone, non accettò la riproduzione perché loro erano troppo fattoni e si vergognava, insomma, che di concedere questa cosa, e quindi questo pezzo fu sostituito da 24 Hour Party People. E devo dire che secondo me hanno fatto meno male che Michael Jackson non gli ha ceduto i diritti. E su loro sono state le colonne portanti del progetto Factory. Si sono incontrati la prima volta con l'impresario Tony Wilson durante una Battle of the Band organizzata all'Hacienda, che era il locale di Wilson, durante la quale il gruppo, naturalmente, secondo te come si classificò? Ultimo. Esattamente. Joy Division con She's Lost Control, la preferita Ottavia questa. C'erano altri due pezzi dei Joy Division, Low It Sì, Apart e Transmission, che invece sono quelli che io amo. Certo. Però io do la precedenza a te. Transmission mi pare che è la sigla del programma di Elettrodo. Ah, vero? No, non è trasmesso. Ci dicono no. No, vabbè, comunque un saluto all'Elettrodo, che la sigla è un pezzo di Joy Division, se non ricordo male. No, ci sono tanti pezzi di Joy Division, perché il film è parallelamente, sono tre storie, no? È la storia di Wilson e la storia dei Joy Division e degli Happy Mondays, e quindi insomma ci sono tanti pezzi ci sono tanti pezzi loro. Questo, la storia di Joy Division, insomma, è famosissima, inizia come quella di decine e decine di altri gruppi nati in Inghilterra, sono tre ragazzi che mettono su una band, e terminerà nel giro di neanche 4 anni tragicamente con il suicidio del suo leader. Loro nascono, sono legati appunto, come dicevo, a doppio filo con la Factory, e i loro primi due pezzi escono proprio nella prima compilation prodotta dalla Factory, che si chiamava A Factory Sample, e erano Digital e Glass, due pezzi famosissimi e straordinari. E Ian Curtis era amatissimo dal fondatore di questa label, nonché da Martin Annett, che insomma fu proprio lui a registrare praticamente tutti i loro pezzi. Questo in particolare appare nell'album di debutto dei Joy Division, Unknown Pleasure, del 1979, e dà una cosa insomma particolare, nel senso che c'è una versione più elettronica e con un verso aggiunto da Curtis, ed è una delle nel 1980, ed è una delle ultimissime registrazioni del cantante, in cui ha aggiunto nelle ultime esibizioni live prima della sua morte alcune linee di tastiera suonate da lui stesso, e questo era una cosa abbastanza insolita, perché lui non suonava, cantava e basta. Invece, due parole su questa etichetta musicale, sulla storia di questa etichetta musicale straordinaria. La Factory Records è stata una delle più importanti etichette indipendenti inglesi, e tutto è iniziato nel 1976, quando Tony Wilson era conduttore di un programma televisivo che si chiamava, trasmesso da Granada Television, che ospitava cantanti della musica della scena alternativa della musica, e gli viene insomma in mente di creare questo progetto, perché inizialmente era proprio un progetto, e insieme all'amico Alan Erasmus, che all'epoca era un attore disoccupato e manager di piccole band musicali, e hanno fondato inizialmente The Movement of the 24th January, e poi quando è intervenuto anche Peter Saville, che si occupava della grafica dell'etichetta, e Martin Annett, è nata poi la Factory Records. La Factory ha investito poi anche nell'apertura di un club che si chiamava Hacienda, sempre a Manchester, era una ben costruita all'interno di una fabbrica dismessa, e aprì nel 1982, nonostante il club fosse insomma il club più importante di Manchester e fosse sempre pieno, non incassava mai un soldo, perché era il periodo, a parte una politica di prezzi molto popolari, ma era anche il periodo dell'ecstasy, e così ha raccontato Tony Wilson che nessuno beveva alcolici, tutti bevevano acqua, e quindi non incassavano mai una sterlina. Comunque insomma anche la Factory, come l'azienda, ha un'ascesa incredibile e poi un declino inesorabile, perché comunque questo era un gruppo di fattoni, di gente proprio sbandata, di matti, ed erano matti anche questi personaggi che producevano, perché insomma gli Happy Mondays li hanno combinati di tutti i colori. E poi insomma l'azienda fallisce, la Factory Records cerca insomma anche di trovare degli affiliati, che però poi dopo si tirano indietro, perché era la politica dell'etichetta era quella di non fare contratti con i loro artisti, okay, di lasciarli completamente liberi. Quindi quando una famosa etichetta inglese si offre per comprarla, si tira subito indietro, perché non c'era, come dire, era tutto fuffa. E quindi insomma fallisce tutto tutto quanto questo progetto, ma insomma resterà nella storia. Alla bara di Tony Wilson, morto nel 2007, è riservato l'onore dell'ultimo numero di catalogo Factory 501, perché loro mettevano un numero a qualsiasi cosa produceva. Oh, la Factory Records ci porta all'ospite di questa settimana, Anthony Ettore, che già è stato con noi un paio d'anni fa, se non sbaglio. Anthony, ci sei? Ecco. Ci siamo sentiti, ciao a tutti. Rocky Horror cos'era? Era con Rocky Horror, sì, ci eravamo sentiti, credo, forse circa un anno fa, anzi due anni, hai ragione. Ok, come stai? Tutto bene? Bene. Tutto bene, anche, okay. Sei anche in forma. Siamo in forma, sì. Perfetto. Allora, tu non so se hai visto questo film, ma comunque è un modo per parlare di Winterbot. Ah, benissimo. Allora, guarda, io ho visto questo film, credo, parliamo di 15 anni fa, credo poco dopo la sua uscita, credo di essere stato una VHS originale, qualcosa del genere, perché non aveva ancora neanche una distribuzione italiana, quindi però un film che andava visto per la sua, insomma, a prescindere appunto dalla firma di Michael Winterbottom fondamentale, però insomma l'oggetto era il principale interesse per quanto mi riguarda. Sì, l'uscita, la produzione è del 2002 di 24 Hours. Del 2002, sì, l'avrò visto negli anni a seguire. Senti, che impressione hai avuto? Beh, il film credo che riesca a raccontare nel miglior modo possibile quello che è un passaggio storico di quello che è come dire, uno dei momenti più importanti della storia del rock, andano proprio con cautela il termine rock, perché tra la fine degli anni 70, quindi con l'avvento del punk, fino a quello che è successo poi negli anni successivi, l'Inghilterra ha avuto proprio un ruolo centrale nella trasformazione di nuovi fenomeni musicali, e la Factory di Tony Wilson ha avuto un ruolo proprio centrale. Tutta la scena di Manchester ha avuto un ruolo centrale, i Joy Division, il primo gruppo prodotto da Tony Wilson, è stato un gruppo seminale, un gruppo non solo unico nella storia della musica moderna, ma anche un gruppo di passaggio, no? Di trasformazione. Tony Wilson, non so se avete, io purtroppo non vi ho potuto ascoltare nei momenti precedenti, ma è presente a questa telefonata, ma l'azienda, il luogo, il locale fisico gestito da Tony Wilson era, come dire, sostenuto anche con i proventi dei gruppi che lui produceva, ma dava la possibilità di suonare a molte band in cui lui credeva. Lui aveva una missione, un po' come si racconta, lui vide Sex Pistols nel 76 ed ebbe questa illuminazione. Lui ha visto la luce con i Sex Pistols, lui ha avuto questa importante epifania, e di lì ha dato vita ad una serie di realtà musicali che hanno trasformato e rinnovato, quindi attraverso il post-punk, la new wave, ma il passaggio al synth pop e all'elettronica, fino ad arrivare alla techno, attraverso l'house, fino ad arrivare ai tempi moderni, insomma, sì. L'elettronica tuttora, infatti possiamo partire dai Sex Pistols per arrivare ai Chemical Brothers in un passaggio unico, no? L'Inghilterra era anche questo. Beh, il modo in cui è raccontato nel film di Winterbottom è straordinario, perché ha ha questa, come dire, componente di dinamicità che è sia dovuta all'ibridazione tra l'utilizzo della pellicola e il digitale, questo approccio semidocumentaristico. Ricordo che Tony Wilson ha anche un approccio diretto con il pubblico, non parla in macchina, commenta un po' quello che accade, sì. E questo è fondamentale, perché gioca con elementi reali per poi mettere in scena probabilmente quelle che poi sono state anche leggende metropolitane, anche eventi che mi piace richiamare intorno alla storia del rock. E quindi questo è quello che mi è rimasto più impresso, un film che resta impresso nello spettatore. E da appassionato di musica, anche posso dire che arriva invece anche molto di quella che poi è la storia di tutti che vengono raccontati, appunto c'è il passaggio appunto di Division Happy Mondays e altri gruppi che hanno fatto l'arrivo del New Order, la trasformazione proprio Jury Vision New York, dentro con la morte di Ian Curtis, che ha dato proprio una svolta. Quindi documenta nel miglior modo possibile un momento storico, per me è un film storico più che una biopic, no? Ed è complementare per alcuni versi anche al film di Anthony Corbin su Ian Curtis e Jury Vision, appunto Control, che verrà realizzato qualche anno più tardi, nel 2007 mi pare, di cui appunto Tony Wilson era anche coproduttore, anche per fare morire poco prima della realizzazione del film. Insomma, ci sarebbe tanto da dire, ma è un film da vivere, da ascoltare ad altissimo volume, in cui non è necessario crederci e non crederci nei dettagli, ma è da assorbire e da vivere come è un'opera rock, deve essere un'opera filmica veramente preziosa, che ringrazio per il tuo invito, perché sarà occasione per rivederlo, perché veramente sono passati tantissimi anni, sì. Rivederlo sarà importante. È un film importante, come ha anche abitato di leggere un fantastico volume di lui si chiama un giornalista insomma inglese, che ha realizzato un libro sul post-punk che è una piccola Bibbia, mi chiama Simon Reynolds, mi pare sia il nome, che racconta anche diversi passaggi documentati in questo film, tra il 77 e 78 fino alla metà della prima metà degli anni 80. Winterbottom, insomma, rende difficilmente si riuscirà a fare un film che racconti nel miglior modo questo passaggio. Adesso non so cos'altro aggiungere, sì. La cosa anche interessante, appunto, mi pare che nel film ci fossero anche dei non so se ve l'avete visto più di recente, ci sono anche dei passaggi documentaristici, delle immagini footage di concerti reali, mi pare che Sex Pistols fossero un materiale di repertorio, e questo anche questa ibridazione, questa forma anche innovativa di raccontare valore aggiunto insomma del film. Sì, sì. Il personaggio di come si chiama, lo stavo facendo una gaffa significativa, di Tony Wilson me lo sono ritrovato un po' nella serie Vinyl prodotta da Scorsese. Ah, bella, mi è tanto piaciuta. Esatto, che comunque sì, per quanto ambientato negli Stati Uniti è ispirato a un periodo forse un po' precedente, un po' ricalca, no? Il personaggio. Il carisma, sì, di questo personaggio trasgressivo, stravagante, che insomma è ricordato che è alla ricerca dell'illuminazione, e che Ricci Finestra, appunto, è il protagonista della serie prodotta da Scorsese, la cui prima puntata è meravigliosamente diretta da Scorsese, però purtroppo a quanto pare è stato un flop e non ha avuto un seguito la prima stagione. Non so cosa altro. Beh, ne hai dette tante. Antonio, sì, sei stato anche piuttosto esaustivo. Mi viene in mente solo il fatto, rispetto a questo film, che è in un prodotto nel 2002, è stato ancora il periodo di punta di Winterbottom in Italia, perché poi io ricordo Codice 46 e Road to Guantanamo, che è del 2006, ma da lì in poi lui ha continuato a fare molte altre cose che qui in Italia però non sono più arrivate, quindi il periodo d'oro in Italia è da Butterfly Kiss. Devo riconoscere di non essere un suo cultore, e per me Winterbottom è molto vincolato, è legato a questo, sì, a questo film, ma credo che ci siano tutti gli elementi per poterlo riconoscere. Il film fu nominato a Cannes, ma non credo avesse vinto qualche premio, però insomma ebbe un ottimo responso di critica soprattutto, e forse non sufficientemente distribuito almeno in Italia, perché io non ricordo se ci fu una distribuzione in sala. Sicuramente è uscito in un video dopo qualche anno. Sì, no, io non ho avuto modo di vederlo in sala, quindi non credo ci siano state proiezioni stampa. No, quindi esatto. È andata questa così. Questa cosa qui, insomma, probabilmente per quanto riguarda ci guarda, c'è un po' penalizzate, eppure insomma è un fenomeno molto va recuperato, importante, che avrà la stessa importanza fra 20 anni, insomma, questo è bisogna riconoscerli. Senti Anthony, nel salutarci ci sono lavori con colonne sonore strepitose che vuoi segnalarci? Guarda, questa non mi coglie proprio impreparato. Questo fa leva sulle impressioni, quindi le prime cose che ti vengono in mente forse sono quelle buone, quelle giuste. Anche cose vecchie, anche di significativo contemporaneo non mi viene in mente nulla. In realtà, essendo anche incuriosito molto da alcune serie televisive, appunto avevo citato Vinyl, ma così come anche alcune serie tipo abbastanza recente, tipo Fargo, di cui ho potuto vedere le prime due stagioni e altre, vedo che c'è comunque spesso una ricerca significativa dell'utilizzo, cioè la colonna sonora ha spesso dei contenuti molto ricercati nell'ambito musicale, ma spesso mi sembra di interpretare che sia un po' troppo, un po' un vezzo, un po', sì, come dire, piaccioneria, non saprei come definirlo. Ho capito non senso. Trovo, no, almeno sì, di recente non trovo nulla che mi abbia particolarmente ispirato. Purtroppo ho una grossa ancora vuoto, perché non sono riuscito a vedere nei due giorni in sala il film di Jarmusch sugli Stooges. Spero di recuperarlo. Gran bel lavoro. Esatto, devo recuperarlo quanto prima, okay. Perché sì, va fatto. Una delle cose che probabilmente avrei segnalato di altre. Anthony, t'abbraccio e ci sentiamo per grazie, le prossime. Grazie, buon proseguimento. A presto. Ciao. Certa in razio, per dirla in latino, con Flight. molto new wave anni 80. Eh sì, poi questa band è proprio legata a doppio filo con la storia di questa band è proprio legata a doppio filo con l'etichetta Factory Records, cioè non solo perché il gruppo è stato uno dei primi a esservi messo sotto contratto, ma perché ne ha incarnato proprio fin dall'inizio l'attitudine sperimentale. Martin Moskrop, Peter Terrer alle chitarre, Jeremy Kerr al basso, Simon Topping alla voce, si aggiungerà reclutato lo stesso Wilson, il batterista Donald Johnson, e questo singolo Flight dell'ottobre 1980 è uno dei pezzi più significativi di questo gruppo, e porta in sé tutto un miscuglio di sonorità e generi funky, poi questa voce baritonale di Topping, distorsioni, molto fredda la musica, molto geometrica. Questi synth, il basso, insomma un gran bel pezzo. Il nome della band è stato preso dal testo della canzone di Brian Eno The True Will, tratta dall'album Taking Tiger Mountain by Strategy. E Martin Moskrop ho trovato nelle mie ricerche che nella band suona la chitarra e la tromba, è stato il supervisore musicale di questo film. We'll be right back. New Order con Blue Monday, il giorno più triste dell'anno, vero? Sì, sì, sì, sì. E il terzo lunedì di gennaio. Secondo i calcoli. Sì, però c'è anche il giorno più felice dell'anno, che è tra il 21 e il 23 giugno, nel periodo del solstizio d'estate. Beh, questo è un pezzone, Fede, mamma mia quanto mi piacciono i New Order, sono pazza di loro. New Order, che sono nati dopo lo scioglimento dei Joy Division, dopo la morte di Ian Curtis, avevano fatto questo accordo, il gruppo aveva fatto questo accordo che si sarebbero sciolti e avrebbero formato un nuovo gruppo, che è stato proprio questo, che è nato nel 1980. Questo brano è uno dei più famosi, è un singolo del 1983 e penso, sapete che è stato il 12 pollici più venduto della storia, dura tantissimo, 6 minuti 7 minuti e mezzo 7 minuti e mezzo e pare, adesso questa è una, non so, mi prenderai in giro, pare che per produrre la canzone la band si sia servita delle prestazioni di uno scienziato al fine di costruire un sequencer, cioè uno strumento che permettesse di gestire insieme sintetizzatori e batterie elettroniche. Sarà vero? Ma? Non lo so. E poi la copertina del singolo, che venne prodotto chiaramente, indovina da chi? Dalla nostra Factory, fu costosissima, ad opera di Peter Seville, era l'immagine di un enorme floppy disk e dice così Stephen Morris: mi ricordo che Peter entrò in sala e rimase quasi ipnotizzato quando vide il nostro nuovo campionatore. Si trattava di un emulator sampler che utilizzava dei floppy disk da 4 pollici sui quali registravamo le linee guida della canzone. Peter prese in mano un floppy e mi chiede subito se poteva avere uno di quegli affascinanti oggetti. Ecco com'è nata la copertina di Blue Monday, una copertina così curata nei minimi particolari che praticamente il guadagno che derivava dalla vendita copriva l'altissimo costo per la confezione del disco. Una delle tante follie di questa etichetta musicale, che non badava spese ma voleva soltanto produrre cose qualità. Sì. Abbiamo messo i Sex Pistols, non possono mancare loro. Rock and roll. Jenny Jones, loro sono i Clash. Siamo ai saluti, Ottavia. Sì. E mettiamo poi un pezzo che, come dicevi te, chiude il cerchio, perché si tratta di Moby con Go. E però diamo prima i riferimenti. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. L'indirizzo di posta elettronica è traccedicinema@andarossa.info per sottoscrivere l'indirizzo di il conto corrente postale è 6180 4001, intestato a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56, che altro? Un saluto più affettuoso e più forte a tutti i compagni e le compagne che in questo momento vivono privati della loro libertà personale. Ciao, alla prossima.